Non capisco quello che dice, però Riccardo, non ti sento. Nei miei confronti qui hai peggiorato, prima riuscivo a sentirti, non ho neanche QRM. Poi chi c'è? Mi ha detto Uranio da Usilo? Sì, l'ho rilanciato, ma forse si è assentato un attimino, o si è spostato. Sì, arriva bene. Sì, Giovanna c'ha l'antennino sempre, mi pare. Ha attaccato dove, Giovanna, con la base magnetica? A che cosa era attaccato? Per un sifone? No, la caldaia, sono un terrazzino. Sì, vabbè, Giovanna arriva bene qua perché, diciamo, in alto, io sono a metà strada, non è così, dai. Vira avanti, Riccardo. Sì, c'è Giovanna, Franco e io, Marco, avanti. Prima stavamo parlando di questa situazione un po' strana, che ti devi giustificare, eccetera. Boh, vabbè. Certe volte penso, negli altri paesi non è così, nonostante la stampa ci abbia dato notizie false, alcuni giornali dice situazione tragica, Germania, cose, poi uno che era ad Amburgo ha fatto il video, c'era la gente bella che passeggiava a lungomare senza mascherina, che si è sdraiata anche sulla spiaggia, capito? Qua restrizione a manetta, credo che sia il paese europeo con più restrizioni. Vabbè, certe volte penso che sia, cioè, questa non è vita, allora preferisco andare incontro al mio destino e come va, l'unica cosa mia, mi dispiacerebbe lasciare mamma sola se mi dovessi ammalare e morire, tutto lì, vai Giova. Io purtroppo Riccardino non lo sento. Ricca, non ti sentono, io ti sento, guarda, sei Santiago 8 pieno, però Franco ti sente basso basso, Giovanna non ti sente perché è con l'antennino. Sì, stavamo parlando della situazione, Ricca, comunque. Poi non si sa se le scuole riprenderanno, è tutto, ma nemmeno i virologi ne hanno capito niente. Ancora devono capire come funziona questo virus, cosa fa, cosa non fa. Cioè, è tutto incerto, capito? Anche gli esperti non sanno che pesci prendere. Vai Franco. Giovanna, adesso è migliorato un po'? Caspita. Prego. Molto. Signore, non te lo posso dare, però perché ho leggo. Ok. Se non mi bussano il portone, qualcuno mi ha attaccato un po' di vitamine, dai. Così è, ma se ascolti, guarda, le teorie che senti in giro in questi giorni, anche quella sulle medicine, che c'è chi cura col sangue, dice, è già guarita, che dice che è una fesseria, a costo zero, però non vogliono portarla avanti perché ci vogliono guadagnare più le case farmaceutiche, capito Marco? Io mando avanti Roberto, che ha breccato, ok, vaccini pure me, per carità, vai Roberto. Ciao, buonasera a tutti, sono rientrato adesso, eravamo un po' sul 33 con Giovanni, sto facendo delle prove, c'era uno spagnolo delle Canarie. Ok, chi c'è in questo canale? Ho sentito a te, Marco, Franco, Giovanna, c'è qualcun altro? Riccardo. Tutti salutati al 100%, dai, facciamo entrare Riccardino che è il più basso come segnale, poi Giovanna e tutti gli altri. Adesso dovrebbe entrare anche Giovanni Bracco, avanti Riccardo. Vai Giovanna. Va. Va bene, dai, non ci lamentiamo, bisogna essere sempre positivi, mai lamentarsi. Adesso speriamo bene, vi stavo ascoltando questi discorsi del vaccino, coronavirus e buono, non ne voglio più sentire. Dal 4 siamo tutti liberi e ce ne andiamo a divertirci al mare dove vogliamo noi. A meno fatti nuda se ci mettono la contravvenzione. Ok, aspetta, se c'è Giovanni che ci siamo trasportati al 10. Giovanni, ci sei? Sì che ci sono, e non ti credere che da lunedì siamo liberi, chi te l'ha detto? Stare molto attenti, stanno dando certe stangate perché sta succedendo un fatto strano. Dunque, per quanto riguarda la regione ci sono certe ordinanze, però i carabinieri che sono strano si attengono alle ordinanze statali e stanno mettendo multe che non dovrebbero metterle, così ho sentito e non so se sia vero. Oggi in Piazza d'Italia è tutto il centro, era pieno di gente, adesso sono più tolleranti, sono resi conto che stanno esagerando, dai. E da lunedì qualcosa di meglio ci avrà, dai. Ok, riprendi da Franco che farà girare per Marco. Ciao Giovanni, mi ascolti? Sì, ti ascolto. è a Ricciardino che ha sotto molto molto basso. Io proprio nei miei confronti è peggiorato tantissimo, quindi prima riusciva a tirare fuori con le pinze, adesso proprio sento solo il QRM che si solleva e basta. Avanti Marco. Ciao Giovanni, abbiamo parlato ieri notte, un po' a ora, tipo verso quest'ora, dai. Buona serata, ben entrato. Ok, attenzione, ma quale Marco sei? Perché c'è un radiamatore S0KIT che è Marco, ma sei tu? No, io sono il CB8, solo CB. Ho capito. Vabbè, comunque salutoni, fai girare. Mi piace questo termine CB8 che si usava già da tanti anni fa, un po' dispregiativo, dai, divertente. Ok, vabbè, io sì, la considero finita questa storia quando si potrà girare liberamente senza obbligo di giustificarsi, di roba stampata portata appresso, senza rischio di sanzioni. Preghiamo che ci facciano andare al mare, perché io, a proposito Giovanni, stavi parlando prima di ombrellone, sdraio, no? Allora, io ogni volta che vado al mare faccio mezzo trasloco, mi vedi zaino pieno di roba, ombrellone, sedietta e il lettino ovviamente, perché io voglio stare comodo al mare. È sempre un mezzo trasloco, vai Giovanni. Sei rivolto a me, a Bracco praticamente. No, la tua Giovanna sta parlando. Cioè, nel senso che non paga le sdraio, io quello che chiedo, se c'è la possibilità di andare al mare anche così, ben venga, e come prima, ben venga, capito? Non credono che ti facciano andare anche così, cioè quasi a titolo... è stancante, perché all'andata vabbè sei più fresco, ma poi dopo che sei stato una mattinata, una serata al sole un po', che poi io mi riparo anche molto, comunque io il caldo lo soffro tantissimo, nonostante mi piaccia il mare, quindi a fine serata devi tutto chiudere, ombrellone, sedietta, lettino, lo zaino mio strapieno, e al fine se torni stanco comunque, poi con tutta quella roba, poi arrivi qui e non trovi quasi mai parcheggio, quindi devi parcheggiare o nella via su o nella via giù, c'è troppo da fare vari giri per trovare un posto, guarda, però per il mare, proprio per il mare il sacrificio lo faccio, finché riesco a farlo, quando riuscirò a farlo, allora brutta la situazione. Vai Riccardi. Allora, più basso di segnale, Santiago 7. Ma una cosa non ho capito, Riccardo, come mai tu vari di segnale? Cioè spesso il tuo segnale cambia molto, un po' basso, un po' alto, un po' intermedio, ma hai possibilità di modificare il watt o stai provando varie antenne, K? Aspetta, qui è migliorato, quindi Riccardo adesso ti sento, avanti Riccardo. Nei miei confronti è migliorato. Allora Riccardo, qui arrivi sempre, sei capibile, è sceso solo il segnale, vabbè, tutto lì, vai Roberto. Qua si abbassa il segnale, tenete presente che io ho il QRM quasi a 9 e lui è sotto il QRM, vicino al QRM, quando c'è il dipolo è appena meno di 9, senza la telecamera normale supera i 9, per cui da parte mia col dipolo c'è peggioramento, però può anche attaccare qualcosa volendo Riccardo, se vuole, dai. Che provi, qui è già migliorato, è un segnale di, non dico quasi uno, e la radio è comprensibile. Oh Robè, ma Riccardo ha una verticale vera e propria, tipo 5 ottavi interrogativo? No, c'ha una mini gran prenda da un quarto d'onda, se mette di palo, diciamo che poi è abbastanza alto, però il problema è che, per come ho capito io, lui è dove c'ha ubicata l'antenna, in un posto leggermente infossato rispetto al resto del terreno. Quando si avvicinava al cancello, probabilmente era un po' più in alto e con l'antenna della macchina riusciva a arrivare meglio. Lì in quella posizione probabilmente risulta un po' chiuso, visto dalle foto sembra che ci sia tipo una collinetta o qualcosa, però è preventivo di mettere un'antenna 5 ottavi. Infatti sta chiedendo a qualcuno se qualcuno ha una Mantova, che è una cosa mercerata ormai, oppure mette una Game Master che la vogliono vendere da fuori di 2 mesi di vita, però ho detto lascia perdere, al limite si se ne fa provare una qua da Luca Flipper che le sta facendo lui simili all'originale e te le fa pagare cifra molto inferiore, al limite si prova, se non va bene gli restituisce l'antenna. Alla fine il tipo non ti sta rispondendo? No, stai attento Riccardo, queste persone che cambiano antenne continuamente, si è detto che sono delle truffe, molte molte persone sono furbacchione. Sinceramente io non mi fiderei, magari questo vuole bonifico, cosa vuole? Che pagamento vuole? Tu fai parlare a tuo babbo, eventualmente fatti dare il numero di telefono, fai parlare a tuo padre e gli chiedi se può fare il contrassegno, insisti sul contrassegno e poi vede tuo babbo, che è già una persona intelligente e esperta, se è un furbacchione, perché ci sono delle persone molto molto furbe e giocano su questo fatto qua. Chiedili se ti fa il contrassegno, se lui trova scusa e dici no, guai, ho carte di credito, Portopay non ne ho, fammelo fare il contrassegno e vedi se lui accetta. Se fa appena il furbetto, lascia perdere, te lo dico perché per esperienza, non mia personale ma di tantissimi amici che hanno preso belle fregature. Ok, facciamo riprendere la Giovanna, che lei era in parcheggio. Avanti Giovanna. Ah, non lo senti Giovanna? No, per niente. Mi dispiace, dai, già si sistemerà piano piano l'antenna. Ok, complimenti a Franco Binario, sta uscendo alla grande, un segnalone allucinante, non so cosa stai facendo, ma sta arrivando a bomba. Ho dovuto spingere un po' perché sennò non mi sentiva Giovanna. Sei quasi 9.30, sei 9.25 il tuo segnale qua. Perfetto, sia di segnale che di radio, eccellente. Vediamo Giovanni, sicuramente ti ascoltano allo stesso modo. Avanti Giovanni. Allora, già che c'è anche un altro mio amico Giovanni, chiamato in bracco, ti ho detto, non mi confondi le idee, porca miseria. Il segnale che devo dare a Franco Ferrovia, non lo capisco, Ferrovia o cosa? Ferrovia, Freccia Rossa, dai. No, mi arrivi forte, dai, arrivi, diciamo, vieni avanti. Vedi un po', 1, 2, 3, prova. Santiago di Nove, dai, mi arrivi. Ma da dove stai modulando? Io sono al Monte Basso, proprio più basso di me non ce n'è. Dei bassi fondi. No, sto scherzando, dai. Vabbè, comunque dico più benissimo, dai. Riprendi oppure va a San Roberto. Io faccio questa greca, per il momento, eventualmente rientro dopo. Ciao Bracco, alle prossime, dai, avanti Roberto. Allora Gianni, scusa, Franco, io ti devo chiamare Franco che non ce ne sono altri, però ho detto Binario perché sapevo la tua mia tipo Binario, invece Freccia Rossa, così. No vabbè, Binario, che non mi ricordo che l'ha messo l'altro giorno, forse Luca, così, no? Per distinguere. Però mi è venuto questo Freccia Rossa che ha sempre a che fare col Binario. Già lui è un po' veloce il burro, dai. Un secondino datemi, un attimino riprendo subito. Riprendete voi, vai Giovanna per gli altri. Dai, ma Marco ti sento ora? Ancora per poco e vado, mi preparo la differenziata, dai, se no arrivo a mezzanotte, ogni volta la butto e poi si fanno le 23.59, parlo sempre un minuto prima della mezzanotte. Ma dai, ci senti la mezzanotte da silenziare, che ti frega? Aspetta Giovanni, io ho difficoltà a comprendere, la modulazione è strana. Se quello è il Connex 4000 Eco, quello grigio, usciva come questo, come sto uscendo io, adesso è come ovattata la modulazione, io non so Pomponio, Antonello cosa ci abbia fatto in quell'apparecchio. È l'857D rincoglionito. Ah, l'857, allora forse deve provare l'altra posizione del microfono, non so quale sia la migliore. Se io l'ho fatta cambiare poco fa, da 1 a 2, capito, perché gli altri non la sentivano. Ho detto guarda che la fai che tu, ti ho detto poco fa, e tu no, pensavo che cosa fosse il Connex, ma il Connex devo sistemarlo, perché mi ha fatto un difetto l'altro giorno di eccezione. Capito? Ma ci ha tornato Giovanna, non è quello il problema, ma chi ne ha voglia che ne abbiamo, non è che non ne abbiamo, però con l'857B c'ha più voltage, più forte, capito? Subito che scendere il lineare giù, attaccare il lineare con la magnetica, non è che è attaccata alla caldaia, cazzo, si accenderebbe la sola, si accenderebbe, come minimo, perché ci vorrebbe, capito? Se attacco 100 volte si accenderebbe, si accende la caldaia. Adesso come ti sentite? Sa se sta pompando anche lui, mentre è 9.20. Sono rientrato, che era Riccardo, tu sei? Sì, sono io, sto facendo per guardare quello che sta giocando. Sì, sei molto forte, però sei un po' saturo. Comunque dai, almeno ti ascoltano tutti. Chiediamo Giovanna se ti ascolta adesso. Leggero, leggero, però non riesco neanche a capire quello che dice, sinceramente. A me già so da anni. Vabbè, purtroppo se non c'è antenna, molte volte sono problemi, cioè molte volte sempre, sono problemi. Franco, ci sei, avanti, ciao Antonello, ti ho sentito di sfuggita. Capo, no, anch'io ho difficoltà a sentire tutti e due. Anche conferma anche Giovanna, la sento anch'io un po' ovattata. Se si avvicina bene al microfono riesco a capirla meglio, se no a volte mi perdo qualche parte del discorso, dai. Avanti Marco. Ehi, scusate, qua è iniziato a ronzare di nuovo l'alimentatore, mi sta esasperando. Ho provato anche a lubrificare l'asse della... Mamma mia, è una cosa incredibile. Dai, io vi devo lasciare. Dai, mi devo chiudere le buste e andare a portarle. E vestire, perché non ci vado in pigiama, mi vergogno. Qua è giù in pigiama, cosa di là fuori? Tanto se ti vogliono restare, stanno restando perché eri in pigiama, non perché stai buttando la mobezza. Marco, eia, buttale dalla finestra tutti i dilli, se c'è qualcuno di quelli che rompono le scatole, che mettono le buste e ti avvira in là. Quando, dopo che hai buttato devi dire, da sotto. Oh, come nel film Benvenuti al Sud, e butti giù. Tipo Fantozzi, che aveva buttato la lavatrice, l'aveva buttato, gli aveva beccato la bianchina lui. A Napoli il periodo di Capodanno adesso non di meno, ma prima c'era un periodo buttavano mobili, televisori, di tutto buttavano per festeggiare, roba ricca che non serviva, anche televisori buttavano dalla finestra. Mamma mia, una cosa di una pericolosità, fece ripetardimi. Così per ridere, cosa stavo dicendo, Franco, guardati Superstar 4009 e poi mi fai un commento. E a capo, guardo. Robè, una curiosità, ma quell'apparato è recente o è di tanti anni fa? Guarda, io lo conosco da una decina d'anni quell'apparato. Penso che sia appena uscito 10 anni fa quell'apparato. Guarda, foto su internet ben poche, credo di averne trovato 4, da 4 siti diversi. E video su YouTube forse 2 ne ho trovati. Ma io ero abituato ai Saturn, no, di estetica. E come l'ho visto, ho detto, ma questo è un HF. Cosa? Ma per curiosità, dentro sai cosa c'è? Non è che poi è tutto buccia e dentro c'è la IPT3006 tipo questo apparato, no? Buccia, ma forse non lo sai di cosa dobbiamo parlare. Quell'apparato c'ha 2 antenne, 2 ingressi per antenne, per dire puoi mettere una direttiva e una verticale. Dopodiché c'ha il menu, che puoi fare un sacco di funzioni, tutte interfacciabile col computer, c'ha la presa RS232 dietro, è una cosa da fantascienza. C'ha tante di quelle funzioni, più di un HF, forse col TS2000 ti avvicini come funzioni, oppure apparati superiori, però è del periodo del TS2000 quello lì. Però è un baracchino super sofisticato con cose inimmaginabili in altri tipi di apparati. Quindi è un vero e proprio, comunque, apparecchio di classe superiore, dai, ho capito. Buono, buono. Solo che deve essere una cosa rara, magari anche pochi esemplari, boh. Ah, mi compare con un altro nome, lo sai? Adesso ti dico qual è, non so se lo sai già. Sembra sì, lo facevano tipo al Merek, un nome del genere, cioè c'erano 2 o 3 di modelli. Poi c'è la versione giapponese, quelli lo fanno in coso, mi sembra in Giappone quel baracchino. Ma non si può chiamare un baracchino perché è più grande del 440, è una cosa spettacolare. C'ha tante di quelle cose di sottopagine, di Meirune, di... Hai visto? Tutto digitale, anche gli indicatori, modulometro, rosmetro, wattmetro, tutto in un unico quadrante, poi c'è la frequenza, è una cosa spettacolare, è tipo il TS2000, è molto simile al TS2000 come concezione di apparato. Allora, poi rilancio gli altri, allora, qua mi compare come, credo che sia o polacco o tedesco, è Stabo XF9082, alias Superstar 4009, B, esattamente, B di bravo, Stabo XF9082, può darsi che anche sotto altri nomi si trovi, magari dai paesi del Nord Europa, Est Europa, tipo Polonia. Sì, infatti c'era anche la Stabo, adesso mi ricordo bene, anche la Stabo lo faceva. Sì, sì, sì, vari su licenza, non sono lo fanno con altri nomi. Ok, vabbè, facciamo girare, se no stiamo monopolizzando. Vai Riccardino che farà girare a Giovanna, poi vai Riccardo. Scusate, mi sono portato per la quando soccorro e parlare. Allora Riccardi, ti dico una cosa, adesso stai saturando ed è un po' difficile ascoltarti. Poi c'è un po' un, non dico che siamo visto, però probabilmente ancora ti devi abituare a parlare più lentamente e scandire le parole, perché se parli troppo veloce già stai saturando, è ancora peggio e non riusciamo a sentire il discorso. Un po' più lento, perché non è un segnale così forte che ti permette di sentire chiaramente tutte le parole, per cui parla più lentamente e cerca di tenere il microfono alla stessa distanza, così riusciamo a capire il discorso. Mi hai parlato di un'antenna, se vuoi ripetere più lentamente perché non ho capito quello che dicevi. Le antenne 5 ottavi più o meno tutte vanno similmente come prestazioni, perché tanto che cosa sono le lunghezze fisiche dell'antenna? È sempre una 5 ottavi una, l'altra è sempre 5 ottavi, magari ti possono fare qualche fesseria di diversità per diversificarla come produttore, però i rendimenti sono più o meno identici, per cui è inutile, poi ti raccontano le balle, una ti dice 6 dB, 3 dB, sono tutti i guadagni effettivi intorno al decibel 1,2 1,3, si sparano dei guadagni assurdi che non esistono. Tu parti dal principio che tutte le antenne di quelle dimensioni 5 ottavi sono più o meno simili come prestazione. Ci sono quelle che hanno meno radialini, quelle che ne hanno di più, quelle che ce le hanno più lunghe, quelle che ce le hanno più corte, quelle che hanno una bobina fatta una tromba, però la resa è più o meno simile. Tu devi cercare un'antenna fattibile, nel senso che riesci a trovare. La massima è un'antenna che va benissimo, però se la fanno fare un sacco di soldi, a meno che non la trovi sicura dal distributore, però comprarle usate stai molto attento a rifiuti duri, a meno che non c'è qua uno che ce l'ha pronta, piazzata vai, te la smonti o ti fai aiutare al tuo babbo e te la piazzi. Solo così, stando sempre attento che sia efficiente l'antenna. Ok, Giovanna, riprenditela tu e scusate il monopolio. Avanti Tonello. Sì, ya. Sei? Sì, sono qua, ho mangiato io, anche Tommy. Quindi mangiamo in due adesso, capito? Perché lui mangia più la roba da buona, cioè la roba che mi compro, adesso mangia la roba da me. In pratica, ciò che mangio io mangia lui, sta diventando esiliato come cane. Mi capivo, sta facendo bene l'altro giorno, oggi se vuoi si è frantumato, si è segnale 7 qua, a casa. Anche distante dal microfonino qua, d'altronde. Riccardi, c'è un punto che è veramente bello. Mettici un bel palo in quell'antenna e vedrai che scimiglio. Ci vuole un palo alto, ci vuole. Pigliati un palo telescopico, ci metti la miniglapene, sollevi di 12 metri, cosa del genere, l'ancuri bene e vedrai che esci perfetto, perché qui dovresti arrivare in fondo scala. Se sei lì a Fidichindu, figurati Natalino, dentro il fosso dove abitava lui, arrivava 9-10 qua, che era più o meno vicino a te, anzi tu dovresti essere in un punto molto più buono, la verità secca. Consiglio, più che antenne così, dico bene, prenditi una bella mantova. Hai capito, fai la spesa unica, costa quello che costi, se la piglia in Napoli, ma almeno c'è l'antenna come si deve. Quelle a Canona Pesca, oppure a Game Master, non lo so, se è una tua ventosa, si piegano, capito, qui si spezzi, il discorso è quello, io la penso così. Io la mia ce l'ho la bellezza di un bel po' di anni, così ce l'ha anche Roberto Quadrato, sempre ce l'ha più di 7 anni Roberto Quadrato, grazie a Dio, è ancora attenta da quell'antenna, non è mai scesa, ci sono Mantova e Sassari abbandonate, quante ne voci ce ne sono, ce n'è una in Sole, ce n'è una in via Ducati d'Abruzzi e c'ha più di 30 anni, piazzata sopra il tetto, non è mai caduta. Ah, Tony, a proposito di Mantova, lui sta cercando una Mantova, qualcuno che ne ha? E qui non so se è di Mantova, ce n'è una dove sole, ce n'è, vicino a Fabio Master, che è abbandonata lì sopra il tetto. Poi ce n'è una che è via Duca di Abruzzi, che è di un ex tassista che è in pensione. Figurati, visto che c'è via Duca di Abruzzi quando sali. C'è la Mantova, c'è anche una stardata piazzata, quella c'è roba di 15 anni con la terra lì, e non è mai caduta, c'è il tirante, c'è tutto. Il problema è che devi trovare il capocondomino, salire di lì e se ti va bene che l'antenna quando la scendi riesce a smontarla come si deve, è tutto a posto, se no devi tagliare la pezza, il discorso è quello lì. Ci sono matto perché devo sai che ci sarà da solo, dipende dal dominio, capito? Vabbè, smontarla è un po' complicato, dai. Soprattutto se sono montate da tanti anni, si sono incollate, lui a saperle togliere. No, dico, qualcuno ce l'ha già smontata che non la usa. Questo non lo so se c'è qualcuno che ce l'abbia conservata qualche Mantova. E se no la ordina, se ordina una Mantova uno, non costa niente ordinarla. Ordina internet, ci sono le Mantova, non è che non ci siano, basta controllare nelle... su Google ci sono, non so quanto la verità quanto costano, non penso che abbia fallito, no? Magari chiedere a qualche distributore se ce l'ha ancora, magari anche in Sardegna, mi magari chiedere a Cagliari. Grazie, non ce l'ha perché ci ha già chiesto. Ok, vediamo se è rientrato Franco. Sì, non vedo se la facciamo, se la fanno ancora questa antenna. No, stavo guardando quell'apparato, no, un bestione, però all'interno non è che ci sia molta roba, l'ho vista senza il coperchio, roba. Vabbè, di quelli di nuova generazione, non devi vedere tanta roba, è quello che conta, c'è tutto processore, tutti i componenti a coso, superficiali, cioè è una cosa diversa dai baracchini soliti che vediamo noi. Ti sto dicendo, è un bellissimo apparato, non lo conosco in realtà, mai visto, però a livello di coso, di prestazioni, è uno spettacolo. Ok, vediamo un pochettino chi è rimasto qua, Marco se n'è andato, Antonello abbiamo già parlato, Riccardo ha parlato, mi sa c'è Giovanna e basta, oltre a lì non credo nessuno, avanti Giovanni. Se mi fa tolto l'antenna spesso sicuramente l'ascolto, ascolterà più che niente, però va bene. Sicuramente l'antenna, chi fa la differenza è l'antenna, non tanto la potenza poi come attacca, lui ha un 6 metri di palo, purtroppo l'antenna non riesce a irradiare, è chiuso in quella zona dove lui con quell'antenna, molte persone non lo ascoltano, io va bene, per me forse è aperto, riesco a tirarlo fuori, non c'è problema. Il problema è che molti proprio non lo ascoltano per niente, però lui sente e riceve, è quello che è un po' strano. Ok, cosa volevo dire? Avanti tu Riccardino. Io costa la mano a turbo su internet, figurati, c'è comunque. Addirittura la protezione civile ti fa uno sconto. Figurati tu. C'è, è in vendita, basta guardare su internet. Antenna CB, Mantova 1, quello che c'è anche la 1 addirittura. E no, perché mi sta lavorando usata a 100 euro. 114 euro da prendere al volo. Quale chip Antonè? Ho scritto adesso, un attimo Riccardo. Mato da 1, e mi ha passo questo sito qua, mi ha passo. 114 euro. Aspetta che controllo il sito qua, Aspetta che lo sta cercando Riccardi, così vede, 114 euro è un prezzo stracciato, infatti sono rimasto a bocca aperta, perché la Mantova minimo la pagavi 160, ma proprio prezzo allucinante se davano 160, più c'è il trasporto, alla fine ti veniva a 180, a 190 euro pure, il prezzo era quello, infatti 114, controllato non è che sia nuova e non sia usata però. No, è una cosa, il sito è https. Hai sentito Riccardi? No, vabbè, quella cartetti non lo guardare, è www.nampico, cosa hai detto Antonio? Nampico, trattino, online.it, PCCC. C'è il configuratore, ci portavi, cioè 1-1 per fare solo 2 kW, per esempio, per peccare, peso, chi di accettare, 114 euro. Cercala, che sarebbe prendere un prezzaccio, naturalmente che sia una ditta e non sia privato, stai attento alle fregature, che ci abbiano un riferimento, se un'azienda, un numero di telefono, un indirizzo, eccetera, così si evitano le fregature. Ehi, ok, va bene, vediamo. Marco Lì, sei rientrato qui? Vabbè, sì, alla fine sono sempre in pigiama, non ha giocato nulla. Stavo guardando, c'era un sito inglese che mi avevano segnalato, credo fosse dove la volevo acquistare doppio room, no? E dovrebbe essere Radio World UK, però già mi compare out of stock, era 139 sterline, in euro sono molti di più, però anche lì out of stock, ed era turbo, stanno proprio sparendo, perché giustamente chi la vuole sta proprio raschiando tutti i magazzini, tutte ce le stanno comprando. Comunque l'827 è un'antenna ammiraglia. A proposito, Robè, Antonello Di Ossi ha avuto l'827, mi ha fatto capire, e siccome ha dovuto fare un cambio casa, era passato poco tempo, forse un anno, due, forse tre, e già gli elementi, credo che avesse messo addirittura il grasso, non so se vaselina, adesso bisognerebbe chiedere a lui, gli elementi saldati, non è riuscito né battendo né col calore, tutt'uno è diventato lo stile, capito? Che dire, è un peccato, vabbè. Ma stiamo parlando della parte telescopica o i radialini? No, no, radiatore, lo stilo. Cioè i radiali stai parlando? No, radiatore, la parte telescopica. Lui mi ha detto che il grasso ne ha messo, però bisogna dire che è grasso, perché la vaselina, bene o male, col caldo dell'estate tende a collare tutta e sparisce proprio. No, vaselina, grasso di vaselina. Allora, Salvatore Maestrale, lui ce l'aveva mandato la turbo, che ce l'ho io, ha tenuto a fare 4-5 anni, dai, più o meno, e ha fatto il lavoro che gli ho detto io, però bisogna stare attenti a non graffiare, siccome è alluminio anodizzato quello lì, se tu lo intacchi si ossida e si incolla e deve andare a fare per toglierla. Me ne ha portato una Claudio, quando è che l'ha portata? Una Mantova, non mi ricordo di chi era, per smontargliene un coso, un elemento, abbiamo avuto a scaldare in officina per toglierla, non c'è stato verso, se non la scaldi non ci riesci, devi scaldare e dilattare, subito raffreddare. Però se tu fai un lavoro come l'ho fatto io, come lo fanno tanti, stando attento a infilarla, li metti bene dentro a quintali di grasso di vaselina da tutte e due le parti, sia nella parte che è netta che nel tubo vero e proprio, a quintali, la parte dentro, infilato bene, poi asciugata la parte esterna, lo sigilli col vulcanizzante, cioè prima col nastro come si chiama, l'elettricista, e poi tutto in giro col vulcanizzante, l'antenna la smonti, non dico tranquillo, però riesci a toglierla. Poi naturalmente, Robè, io non l'ho detto, ma quando intendo vaselina intendo grasso e vaselina, poi appunto bisognerebbe chiedere a Antonello. Insomma, era un po' demoralizzato perché ha preso la Sirio alias Midland a mezz'onda, dato problemi, cioè ha avuto un malfunzionamento, tipo cavettina interrotta interna, insomma gli è andata male. Questa è andata a smontarla dopo poco tempo per cambio casa. A detta sua ha seguito abbastanza scrupolosamente le cose dette, no? Che tanto gli hanno dette tutte. Insomma, un po' demoralizzata, voleva prendere un'antenna che però praticamente è un'antenna cornuta, un'antenna V, un quarto d'onda, no? E c'ha praticamente il radiatore da una parte e il radiale dall'altra, no? Inclinata, cioè, già lo sai quell'antenna cornuta. Però io ho detto, Antonè, però stai passando da un quarto d'onda verticale a un quarto d'onda mezzo direttivo, cioè a quel punto ti tieni la Grand Plane Full Sight, no, la GP6 Gold, cioè o passi a una 58 e ti tiene quarto d'onda, in poche parole gli ho detto. E come ha messo questo tipo di antenna? Che cosa deve fare? No, cioè allora non l'ha messa, ha contattato sto venditore, ha detto appunto che è fatta bene, ma d'altronde sempre alluminio sarà, che lo seguono anche come ricambi, però io non è un po' direzionale, cioè pur sempre non è verticale, anche se sono a 45 gradi in alto gli elementi, ha sempre una certa direzionalità, c'è il diagramma. Una cosa che le ho detto ancora, scusate se vi lascio, adesso vi le lancio, il lobo di radiazione è diviso in due, uno alto 15 gradi, uno alto 45 gradi, quindi oltre che sdoppiato spara parecchio in alto con l'antenna. Per i DX non, i 50 avi vanno ben sotto, mi pare, i 10 gradi, roba di 8 gradi, più bassa è l'irradiazione meglio è, per, già lo sai, no? Per la riflessione troposferica, e quindi sa, preventiva andrei a prendere quella, però no, io non passerei da un quarto d'onda verticale a uno mezzo orizzontale, diciamo. Che dire, per esempio QTC, Barracuda, ci sia l'ascolto? No, vabbè, dai, quando entra poi ne parliamo. Comunque, insomma, io non la prenderei assolutamente, io 5 ottavi, poi quanto dura? Ah, poi Robè, mi ero sbagliato, io ero convinto che da quando ho messo questa Energy fossero passati 3 anni o giù di lì, invece c'è dal maggio 2014, sono passati già 6 anni e sembra ieri quando l'abbiamo piazzata, lo sai. Ma tu la Energy c'hai, cioè quella 5 ottavi o quella mezz'onda? Rigorosamente 5 ottavi e i 3 radiali orizzontali, 1,30 m l'uno, distanziati a 120 gradi l'uno dall'altro. Sì, no, la conosco l'antenna. Un'antenna rivoluzionaria che pochi ce l'hanno, l'unico che l'ha avuta è che conosco io, però purtroppo non l'ha mai messa come deve metterla, sempre della COSO, della, come si chiama, della CTE, la pagoda, non so se ve la ricordate, con l'antenna a discuni, c'è un disco grande sotto con dei fori, tipo un disco di giradischi, e poi ce ne sono altri tre in alto più piccoli a scalare, quella è un'antenna rivoluzionaria, c'ha una resa spettacolare, però bisogna metterla in alto, molto ma molto in alto. C'è allora Luca Free, per cui non so che fine abbia fatto con l'antenna, se l'ha venduta, se l'ha adatta. Quella è un materiale di costruzione allucinante, cioè non è il classico alluminio liscio che usiamo noi, questo rimane rigato, è un materiale nuovo aeronautico, non so da cosa. E poi c'ha questi dischi metallici che sono fatti, è un sistema di radiazione particolare, cioè brevettato, l'ha fatta la COSO, la CTE, la Midland, dai, diciamo, cosa. E c'ha un guadagno di 5 dB. Magari saranno teorici, però è un'antenna che rende parecchio, ho visto delle prove, e poi ne ho visto un'altra che non conosco, un'antenna da 7 ottavi, non da 5 ottavi, che è lunga più di 8 metri questa antenna, 8 metri e 60 mi sembra. Questa lo stesso, c'è un sistema di radiazione particolari, con diciamo c'è uno stilo centrale alto e la gran piega incappottata, diciamo a testa in giù nella parte bassa, con dei tirantini. Non la conosco perché però ho visto delle prove, soprattutto in Spagna la usano questa qua, e ho visto che da mattana tante antenne più grosse, c'è più grosse di 5 ottavi. Ehi, allora Robè, sì, quella che dici tu, una volta si chiamava Salyut, quasi 8 metri di antenna, se non 9 pure, c'è quel cerchietto, poi quei così vanno verso la base, no? Sì. Adesso la Sirio la vende come Vector 4000, credo di ricordare, comunque tanti nomi ha avuto, l'hanno fatta un po' tutti, è un bel antennone, però credo che sia, se il manuale non sbaglia, tipo una G-Pol, tipo 3/4 d'onda, però ha il lobo di radiazione molto alto. Poi vabbè, la metti e funziona bene quanto le altre, però sì che non lo so, ti consigliano un coso basso, un angolo basso di radiazione in modo da andare più lontano possibile all'orizzonte, no, eccetera, poi con la troposfera, con la riflessione. Sì, c'è tuttora, bella bestia, deve pesare anche un po'. Dunque, quella che hai detto tu con quei dischi, mannaggia, guarda, io quando l'ho vista anni fa, però già non c'era più, era introvabile, a me sembrava un'antenna marziana, un'antenna aliena, ero affascinato dalla forma di questa antenna, la volevo a tutti i costi, magari per installazioni secondarie, ma era introvabile, ti parlo già del 2010, già non la trovavo più. Dai, fa girare, io devo definitivamente lasciare, andare in bagno, vestirmi e fare quello che devo fare, dai Robè. Scusate l'intromissione lunga, di nuovo facciamo riprendere Giovanna, si sarà annoiata, avanti Giovanna. No, tranquilli, sono stata quella che ho controllato sei cose, mi sono arrabbiata. Ok, vai Antonè. Scusate, non se c'è la Superl è meglio come c'è ancora, come antenna. quello non me ne manco. Sì, ancora una cosa c'è, una Skylab, 58 euro, fuori di testa, ragazzi. Sembra in pratica la batta andata, la chiamavano la volta. Ragazzi, 58 euro compra subito. In pratica è la gamba di quella con i corsi contro i radiali fissi. Vai Franco e poi Riccardino. Sì, vabbè, questa Midland Pagoda Cap, questa qua, c'è un discone sotto la base, più tre a scalare tipo fontana su quella in cima, è questa? Sì, sì, sì, quella lì proprio. Quella lì è un'antenna rivoluzionaria, nessuno, non c'è nessun progetto di in tutti i libri di antenne, ce ne sono simili, ma così fatta con quattro dischi non l'avevo mai vista, perché le antenne a disco esistono da sempre, però fatta così è un brevetto della CTA International, la vende la GBC, ce l'aveva la GBC, quando io l'ho vista anche fisicamente, l'ho toccata, presa in mano, e se vedete l'alluminio di costruzione di quell'antenna rimanete a bocca aperta, non c'ha niente a che vedere con qualunque altra antenna in commercio, perché è fatto un materiale, non è liscio, rimane tipo, come posso dire, delle righe, rigato, dai, facendo tipo, parliamo le pennette rigate, una cosa del genere, dai. Naturalmente l'ha portato all'alluminio, molto sottili, è una cosa diversa, dai, materiale. Poi ci sono questi dischi risonanti, non so come lavorano, sinceramente non ne ho idea, perché è un brevetto della Midland, eppure ce l'aveva a coso, lui la usava in terrazzino, gli ho detto come fai a radiare un'antenna in terrazzino, Luca Flipper, non so che fine abbia fatto, però era una di quelle antenne che io avrei voluto comprare all'epoca, poi è capitata in mano la Mantova, tutti avevano la Mantova, era solo per il gusto di vederla funzionare, le prestazioni dicono che sono eccellenti, considerando le dimensioni che non sono enormi e considerando che non ha radiali eccetera. Ok, facciamo riprendere a Riccardino, avanti. Cerca bene, ma rimetti antenna Mantova e cerchi anche su cosa, come si chiama? Non su subito, come si chiama l'altro? Su Amazon, molte volte ci sono queste cose, entri su Amazon, cerca miglior prezzo e vedi un po', naturalmente cerca un'azienda, non cercare privati, vabbè su Amazon sono solo aziende, se non trovi li metti nel motore di ricerca di Google, che ci vede antenna Mantova 1, Mantova 5, Mantova Turbo e ce ne troverai di diverse, ma di tanti negozi che ce l'avranno, anche se un'antenna credo fuori produzione, però la cosa, la Sirio ne ha fatto una nuova che sostituisce la Mantova Turbo, non mi ricordo come si chiama, l'ho vista da qualche parte, sono solo questioni di mercato per cambiare politica di mercato, per dire mio ho fatto un'antenna nuova, ma il funzionamento è identico, non cambia nulla, sono sempre la stessa tipo di antenna modificata in qualche fesseria, come quello che ti metteva la carica dentro una scatola tipo plexi, l'altro te la mette esterna, l'altro te la fa in un altro modo, ma la logica è sempre quella, l'impedenza è sempre quella, la lunghezza è quella, 11 metri la lunghezza, come si chiama, la banda di trasmissione, per cui la lunghezza d'onda, tutto, non c'è niente da sbagliare, sono leggi matematiche e fisiche e non c'è niente da sbagliare, uno può fare qualche giochettino per prenderla un pochettino diversa, ma la fisica è sempre uguale, e la matematica è idem. Vabbè, dunque la Pagoda, ricordate il nome, sì, già capito cosa ho detto, ero affascinato a questa antenna, volevo chiederti, ma tu sapevi com'era configurata, cos'era, quarto d'onda, mezz'onda, perché non conosco la lunghezza, non me la ricordo più. No, credo che sia una 5 ottavi, te lo dico con certezza, aspetta, forse devo avere il decchio, scusami. Tornato, due forse, 89 euro, sì, tornato, una 5 ottavi. Ricca, adesso non ti sento più. Poc'anzi col dipolo ti sentivo, hai cambiato di nuovo. Allora Marco, l'antenna è equivalente a una 5 ottavi, però utilizzano questi disconi risonanti. La lunghezza è di 2 metri dell'antenna, 2 metri esatti. Ah ecco, sì, ricordavo qualcosa di compatto. Poi sicuramente era fatta in modo particolare, ma per caso sfrutta qualche tipo quel tipo di funzionamento simile di scone, l'antenna di scone quella per ricevere? No, non c'ha niente a vedere con quello lì, sono le antenne a disco queste, noi la chiamiamo le discone, quelle come che sono multibanda, dai, quelle che usano per gli scanner, questa non c'ha niente a che vedere, hanno accorciato fisicamente l'antenna con questi dischi risonanti, però dice proprio nelle istruzioni devi sollevarla almeno 4 metri dal punto più alto, per dire dal cornicione, dal tetto, deve essere almeno a 4 metri, se no non ne fai niente. Luca Flipper l'aveva messa in terrazza, non riusciva a irradiare con l'antenna, infatti era peggio di una gran play andava, perché non aveva irradiazione, quella è fatta per costruita per lavorare ad altezza almeno 4 metri dal suolo, o dal terrazzo, o da qualunque punto che Dio fa. Eia. Sì, mi ricordo, l'unica foto disponibile su internet l'avevo salvata, adesso sicuramente come mi si è rotto la disk di dati vecchi avrò perso anche la foto, peccato, vabbè. Ok, dai, riprendete, sempre io in ascolto rimango. Allora, trasmette da 24 a 32 MHz, una larghezza di banda allucinante, nessuna antenna riesce a lavorare così larga, col coso tipico da 1,1 a 1,5 il massimo. Eia. Quella è una cosa, ma è strano che nessuno abbia ripreso lo stesso progetto, no? Perché non se ne vedono in giro antenne del genere, credo che fosse unica. Sì, è brevettata con 4 dischi, io non l'ho mai vista, io ho i libri delle antenne, ne ho diverse, sono sempre stato appassionato di antenne, le ho viste queste a disco, però normalmente a 1 o 2 dischi, a 4 dischi mai, poi fatta in quel modo nella base, diciamo vicino al piantone, e con quei fori, quelle tipo prese d'aria, io non l'ho mai vista, quelle a disco hanno disco intero, non sono fatte così, e sono antenne, è un brevetto della CTE, diciamo si sono studi al computer, questa è l'antenna costruita al computer, non ha niente a che vedere con le antenne normali che si utilizzano normalmente. Ok, dai, stiamo esagerando con i passaggi miei troppo lunghi. Antone, vai tu. Nulla, Giovanna, riprenditi. Chi rimasto? Siamo io, tu, Marco, scusa, c'è anche Franco, mi sono dimenticato di Franco e Riccardo. Avanti Franco, scusami per il monopolio. Franco, io sto guardando le caratteristiche della Tornado, nessuno l'ha mai avuta la Tornado. La Tornado mi sembra ce l'aveva accolto Capri o qualcuno di fuori. No, già funziona bene, dai. Molto lungo, vabbè, 7,23 metri, regge fino a 150 km/h, 1 kW, 3 kW per poco tempo. Sembrerebbe anche abbastanza massiccio. Sono più o meno tutte simili, dai, qualcuno magari ti fa un'altra configurazione perché il piantone te lo fa un pochettino più alto, l'altro te lo fa più corto, ma le misure fisiche dell'antenna sono 6 metri e 75 più o meno l'accordo, diciamo, per avere quella lì, poi magari dipende dalle bobine, dalle sfide che le hai fatte, eccetera. Il rapporto 5/8 è così, circa 6 metri e 75, 7, poi ci sono, dipende dal materiale che hanno utilizzato, coefficiente di velocità, ci sono tanti fattori che ti cambiano di poco, ma mediamente dai 6,50 ai 7 metri, 7,10 l'antenna, sono più o meno tutte simili, le antenne non cambiano, ma sono tutti progetti simili, non noti innovazioni, l'unica che c'è innovazione è questa pagoda, è un'antenna completamente diversa da tutte le altre, da quelle che utilizzano. Però se non è andata tantissimo, un motivo ci sarà, no, penso io, perché se avesse reso, come dici tu, o come diceva qualcun altro, io penso che avrebbe spaccato, avrebbe spopolato. Ma il discorso è un'antenna recente, questa non esiste da molto, tutti andavano con la Manta, ma perché come quello, comprati il Peugeot, comprati il Mercedes, comprati quella che va bene, comprati la motozappa Golduni che va bene, motocoltivatore Golduni che va bene, e non sanno che mai esiste anche Carrano, il motocoltivatore che è migliore a Golduni, è come quello, io sono lo stesso, ho preso la cosa, la Manta, ma perché mi è capitata la Manta, ma io dovevo acquistare quell'antenna lì, poi non so per quale motivo, ma ho detto guarda che c'è una Manta, va a voi, nuova, da Grassi, la porto, ma la portata me la sono piazzata, se no probabilmente avrei avuto la pagoda, poi non so se la resa effettivamente era valida come la Manta, ma non lo so, comunque è un'antenna paragonabile a una 5/8 con dimensioni un terzo delle dimensioni. Io una Manta facevo, però non la do, diciamo che c'è un valore affettivo, ce l'ho smontata, penso che sia in due pezzi, infilata dentro il garage, adesso bisogna vedere, ma le viti quelle per i radiali mai si saranno ossidate, bisogna mettergli in mano, i radiali li ho toccati appena mi sono fatto le mani a beffa. Posso? Ti voglio indicare Franco, allora la Tornado, l'assedio Tornado 27 di tipo leggero, è 2,9 kg, è un po' più pesante della mia è 2,5 kg, quella 2,9 kg. che ne so, per esempio la serie 827 che è l'ammiraglia pesa 6 kg, buce tutto, radiali tutto compreso, capito? Riprendete, vai. Aspetta, dimmi com'è la Sirio? Allora, l'ammiraglia è la Sirio 827, equiparabile a una mantova, credo proprio grossa come stilo, stilo intendo sempre radiatore, no, vabbè, ed è 6 kg. Questa è 2,9 kg, è appena appena più pesante della mia. C'ha più radiali però? Sì, l'827 adesso non c'ho la foto, dovrebbe avere più radiali. C'è uno che può tirantare e se la mette, si prende il top e se la piazza bene, palo alto, tirante. Io per esempio nelle mie condizioni non volevo tirantare, palo basso, niente tiranti, è antenna di plastica, come direbbe, leggera, dai. Come guadagno siamo lì, il guadagno è uguale. Sì, sì, ah guarda, non fare caso alla LEM, la LEM dichiara sempre 8 dB, 9 dB, sì, aggiungi tipo direttiva, quindi Robè diglielo, isotropici dovrebbero essere sui 3 dB, ma non di più, per le 5 ottavi, vai Robè, te rimango in quadri. Ma neanche, stiamo parlando di 1,2 dB, basta, sono palle che raccontare, sul mio corpo ho guardato il catalogo dalla CTE, c'è questa antenna da 5 ottavi che fa 25 ottavi, e qua dichiara addirittura 7 dB di guadagno. La Spectrum 1600 che ha 16 radialini con una carica sopra, sono balle, non esiste. Una direttiva inizia a guadagnare, state presente la direttiva con la tre elementi, quella grande che avevo io, che adesso l'ho data via, a cosa? Quando l'ho portata per i 10-20, quella c'aveva 6 dB sull'isotropico, per cui effettivi saranno 4 dB, eccetera. E una 5 ottavi mediamente guadagna 1,2, 1,5 di guadagno. Questa è data da 1,5 a 3,65, quindi diciamo che ci sono tenuti baci, dai. Sì, ma ci sono anche la Mantova, davano 6,5, la Mantova Turbo 9 dB davano, sono tutte accessorie che dicono. Cioè per avere quei guadagni deve avere una marea di elementi. Ti ripeto, l'altra elementi direttiva dichiarava 6 dB sull'isotropico, quella che avevo io, fatelo conto. La LEM è sempre stata un po' truffaldina, Per esempio la Turbo 2001 veicolare, la dichiaravano che era una 5 ottavi. Ah, scrivono tante fesserie, purtroppo le leggi fisiche non te le puoi inventare, cioè esistono dei calcoli e non puoi inventare, come 2 per 2 fa 4, tu non puoi dire che fa 5, e il calcolo è quello. Ah vabbè, in Oceania sì, 2 più 2 può fare 5, può fare 3, eccetera, vabbè, quella è una battuta là, non so se conosci Romano. Ma come adesso gli amplificatori, a me mi fanno ridere le potenze degli amplificatori, parliamo audio, cioè ci sono questi cinesi 400 watt, adesso scrivono anche RMS, cioè hanno fatto prove e hanno 10 watt, cioè cos'è, non sanno né cielo né in terra. Prima invece quando dichiarava una potenza, parlo sino agli anni 80, anni 90, parliamo di ditte serie naturalmente, erano quelli da 20 a 20.000 100 watt RMS nominali, invece adesso cacchio si fanno la potenza di picco e ti aumentano anche la potenza di picco, la potenza di picco è 4 volte la potenza massima, fatelo un conto, la potenza massima è 2 volte la potenza nominale, quindi c'hai un amplificatore 8 volte la potenza effettiva, poi al tasso di distorsione normalmente si calcola entro l'1%, con il tasso di distorsione del 10%, per cui tutti i valori sono completamente sballati. Vedi, è come la storia degli switching dei cinesi, no, che ti dichiarano 1000 watt, cioè ti dichiarano, si esprime in watt, no, per gli elementatori di computer, mostruosi, poi vai a vedere, basta che li metti un carico e crollano anche volte, crolla di brutto, no, proprio cifre inventate. No, ma poi la cosa più ridicola sono le batterie dei cellulari, io quando vedo 20.000 mAh, quando c'è la mia nipote, c'è scritto così, leggi 20.000, ma tu non hai idea cosa vuol dire 20.000 mAh, sono 20 ampere, una batteria di macchina grande c'ha 40 ampere e una batteria di 5 cm c'ha 20 ampere, metà di una batteria, ma stiamo scherzando, è così, ma lascia bisbì cos'è così, se avesse 20 ampere di coso, di capacità una batteria di cellulare durerebbe un mese. Ma il bello è che chi lo compra, chi ce l'ha, se ne autoconvince che sia 20.000 mAh, capito? 20 ampere, e lascia che si autoconvincano, come, vabbè, tante altre cose, dai. Dai, quando parliamo di questi argomenti mi diverto, dai, purtroppo. Non parliamo dei condensatori. Ci sono i condensatori adesso cinesi, te li fanno vedere quelli per fare le gare nel coso, da un farad, cose del genere. C'è la scatola, c'è scritto un farad, potenze, capacità esagerate, impensabili sino a 10-15 anni fa. Poi li apri dentro e ci mettono 4-5 di quei condensatori normali dentro un involucro di quanto una lattina di Coca-Cola. E poi ci mettono tre condensatori e la gente, cazzo, c'ho condensatore da un farad. Poi lo apri dentro e è vuoto, cioè una lattina vuota, ci hanno messo 4 condensatori e magari la capacità sarà 10 microfarad, 50, 100 microfarad. Ma hai ricordato che le batterie torcione, no? Quelle, le torce, o chiamate anche torcioni, no? Quelle cinesi, insolitamente leggere, quelle ricaricabili, perché era vuota, c'era la buccia e al centro c'era uno stilo normale e di pure di cattiva qualità, e lì dichiaravano non so quanti ampere, insomma. Ok, facciamo riprendere Riccardino che è in parcheggio, dai, se no stiamo sempre parlando noi, vai Riccardo. Riccardo, ti ho capito male, purtroppo c'ho il correme troppo alto, hai detto stai guardando nel sito web per vedere la manto, ma poi non ho capito cosa hai detto. Se non la trovi così direttamente, ti guardi l'elenco dei negozi di materiale di antenne, antennistiche, tipo GBC, cose del genere, fai un po' di, vabbè, la GBC non c'entra niente, però non solo a Sassari, fai prima a Cagliari, poi provi a iniziare a chiamare tipo città abbastanza grandi, Roma, Milano, Genova, eccetera, eccetera, che sia anche più facile il trasporto, in modo che te li facciano arrivare. Fai un paio di telefonate, io faccio così, quando mi serve qualche particolare per lavoro mio mi faccio un po' di elenchi di negozi e inizio a chiedere a uno e all'altro e cancello, e poi dici avete una manta va turbo, una manta va 5, quelli negozi che vendono tipo fusario di antennistica, componenti elettronici, chiedi, no, non le vendiamo, non è che mi può dire chi le vende, ti fa dare il nome e telefono e fa eliminazione, fai due o tre telefonate, ti costa di meno, solamente gli chiedi se fanno spedizioni contrassegno, negozi dove ci sia una persona che ti risponda, che ci abbia un indirizzo, li chiami e ti metti d'accordo, se non riesci a trovarla direttamente via internet. Ok, Franco riprendi e poi farà girare per Giovanna. Ricapano. Poi volevo chiedere a Riccardino se da casa sua si vede la ferrovia, poi mi farei da ponte perché io non l'ascolto, se praticamente lui rimane sopra la ferrovia. Ok, avanti Giovanna. Giovanna sta parlando? Giovanna ti ha rilanciato, senti? Sì, però non sono la tua No, ti ha rilanciato il coso, vabbè, stavamo parlando sicuramente non argomenti che magari ti possono interessare, stavamo parlando un po' in generale come fare l'ordine per Riccardo, per l'antenna, eccetera, eccetera. Mari, non so se sono argomenti che ti possono interessare, dai, mi dispiace se non sono interessanti. Ok, Riccardino ha chiesto, come si chiama, Franco, se tu vedi la ferrovia, così magari c'è possibilità di vedere dove c'è la sua stazione. Più o meno, ha detto che la vede, no, ha fatto la domanda Giovanna Franco, siccome lui abita vicino giù alla parte bassa del monte dove passa il treno, in parole povere, ed è un po' sacrificata la posizione per Riccardo, dice non riesce a sentirlo, mentre Riccardo sente a lui, e viceversa non so se tu l'ascolti o se lo senti in basso a Riccardo. Giovanna, era solo quella la domanda. Riccardo comunque conferma Franco che la vede la ferrovia, lui è molto in alto, il Filighetto alto alto. No, io ho capito forse dove abita, dove c'è un range, mi sembra, prima c'era una bandiera americana. Proprio lì, hai detto bene. Sì, ho capito, però si entra da un'altra parte, mi sembra che sono anche entrato dalla parte, quindi a volte facciamo degli interventi lì, lungo la ferrovia e cerchiamo sempre degli accessi per camminare il meno possibile a piedi a volte, no? E lui c'ha un ranch tipo americano, bello veramente, complimenti, infatti al babbo ha fatto una cosa unica con tutti quei, come si chiama, con le ventole, mulini a vento, eccetera, bello, bello, con la bandiera americana Yankee. Non so se, io una volta avevo venduto anche una macchina, non so se, magari è il padre che l'ha acquistata, un fuoristrada, un Suzuki nero, un Santana nero, ma tanti anni fa, sì, un Santana era, non era un Samurai. Boh, Riccardo, aveva venduto un Santana nero, Franco, a tuo papà. Ha detto che non pensa, comunque lui c'ha solo macchine americane, il padre, fuoristrada grossi, Dodge, Chevrolet, eccetera. Mi sembra di servire una macchina veloce, tanto non credi il lavoro che faceva o che fa il padre, boh. Sembra che sia lui, Boh, cosa c'avevate di macchine veloci, Riccardo? Camaro, Pontiac, cosa c'era?